A bordo campo di Dario Ricci. Ben ritrovati a bordo campo. Beh, lo sapete, le Olimpiadi di Londra sono cominciate e come, però non siamo ancora troppo tardi per provare a fare i conti in tasca ai nostri amici inglesi che hanno avuto l'onere e l'onore di organizzarli questi giochi della 30ª Olimpiade. Perché? Perché l'impatto economico di un'Olimpiade non si misura il giorno dell'inizio e neppure il giorno della fine, ma va misurato sul medio periodo, a distanza anche di anni dallo svolgimento dell'Olimpiade stessa. E oggi a bordo campo dedichiamo una puntata speciale proprio ai conti economici delle Olimpiadi, a quello che è stato il business anche per le aziende italiane che di fatto, al di là di quello che sarà il medagliere della nostra squadra, speriamo ricchissimo, la loro Olimpiade l'hanno già vinta. Già in linea con noi il nostro primo ospite per parlare di tutti i numeri, di tutti i conti, anche quelli non risolti, di Londra 2012, benvenuto a Marcel Vulpis, il direttore di Sport Economy. Grazie, piacere. Allora Marcel, diciamo conti in tasca a Londra 2012, non semplici da fare. Perché? Perché la promessa era quella di fare giochi super risparmiosi dopo le magnificenze di Pechino 2008. Non sembra che finora gli inglesi ce l'abbiano poi fatta, no? Allora, la notizia positiva è che sicuramente non raggiungeremo il livello monster di Pechino, perché a Pechino furono spesi alla fine circa 42 milioni di euro, così come lievitò del 250% Atene 2004, quindi post evento, quando poi si fanno i conti. La notizia invece negativa è che rispetto alla previsione di budget, che era di 4 miliardi e mezzo nella fase finale dell'assegnazione, in cui era in gara in lizza anche Parigi, che presentava un budget un po' più alto, intorno ai 5 miliardi e 300 milioni di euro, siamo ampiamente oltre l'asticella dei 14 miliardi e potrebbe ulteriormente crescere questa previsione di spesa, perché comunque il governo britannico ha stanziato un fondo imprevisti che è compreso tra 1,5 miliardi e 4 miliardi e mezzo. Uno dei motivi per cui c'è questa tendenza alla riduzione dei costi è sicuramente il fatto che questa sarà l'Olimpiade dell'era moderna più militarizzata, quindi con i maggiori costi per cercare di contenere o comunque contrastare quelli che potrebbero essere dei potenziali attacchi terroristici. Eh sì, è questo uno dei capitoli sempre contrastati, no? Dalla vigilia dei giochi o anche durante gli stessi giochi, perché poi anche gli stessi protocolli di sicurezza impongono misure spesso costosissime, anche se poi alla fine è inevitabilmente necessarie, no? Da questo punto di vista io credo che la spesa di 1,2 miliardi di euro che ha fatto il governo britannico in modo concordato con il LOCOG, che è il comitato organizzatore di Londra, purtroppo sia un costo che bisogna sostenere, perché siamo ancora in un periodo in cui non si può parlare sicuramente di fine del terrorismo internazionale. Assolutamente, diciamo quelli sono i soldi che non vanno messi in discussione. In discussione invece, credo, alla luce anche di quanto già ci hai detto, vadano messi questi famosi report che accompagnano le candidature. Abbiamo visto nei giorni in cui Roma 2020 veniva bocciata su scelta diretta dell'esecutivo, del governo Monti, un campione olimpico come Pietro Mennea aveva attaccato duramente anche la credibilità dei report economici che avevano accompagnato questa candidatura, no? Spesso previsioni di introiti, di posti di lavoro creati, eccetera, eccetera, che vanno al di là di qualsiasi più rosa e soprattutto credibile previsione. Tu che queste carte le scartabelli con grande frequenza e facilità, ma sono studi sempre credibili oppure spesso ci si fa prendere dall'entusiasmo olimpico nel tirar giù certe cifre? Io credo che ci si faccia prendere soprattutto dell'entusiasmo, più che olimpico, l'entusiasmo di poter gestire una grande torta economica che soprattutto nel momento di crisi per l'Italia poteva essere interessante. C'è da dire però che il report che è stato presentato al governo italiano aveva come coordinatore finale Franco Carraro, che era uno dei membri di questo comitato organizzatore, quindi era già, secondo me, tecnicamente sbagliato presentare un report economico che aveva comunque la supervisione di colui che lo propone. Sì, c'era un cortocircuito evidente e ben ha fatto, tra gli altri, Pietro Mennea a evidenziarlo e a metterlo in risalto. Tornando a Londra, anche in questo caso si ipotizzano impatti economici positivi, ad esempio la PricewaterhouseCoopers sottolinea che questo impatto potrebbe essere pari a 1,6 miliardi di euro. Queste valutazioni vanno fatte inevitabilmente su tempi medio-lunghi, vero? Sono risultati... Lunghi e soprattutto al termine dell'evento. C'è però una previsione che ha fatto Visit Britain, che è l'ente di promozione turistico del Regno Unito, quindi non soltanto della metropoli o dell'area metropolitana di Londra, dove il loro obiettivo è quello di non perdere turisti in concomitanza con le settimane dell'Olimpiade e delle Paralimpiadi. Mi spiego meglio, in occasione di questi grandi eventi, e l'Olimpiade è l'evento sportivo più seguito al mondo, sia live che a livello televisivo, ricordiamo che si prevede una stima di oltre 5 miliardi di contatti TV, dall'inizio alla fine della manifestazione, che cosa succede? Succede che spesso molti dei residenti tendono ad andare fuori dalla città che è diventata la host city, cioè la città che ospita la manifestazione olimpica, la manifestazione a Cinque Cerchi, e quindi si perdono presenze sul territorio, quindi c'è un'anomalia anche in questo caso sui numeri delle presenze live, per cui ormai è diventato un'Olimpiadi vincente, quell'Olimpiadi che non perde presenze sul territorio, perché c'è comunque un effetto boomerang nel momento in cui si sa che in quel mese e mezzo ci sarà questa famiglia olimpica che invade in questo caso Londra, ma poteva essere ad esempio Parigi se avesse vinto il report francese, e quindi in quel caso molti dei residenti preferiscono andare all'estero, e quindi alla fine il dato non è sempre negativo. Questo è successo già a Pechino ed è successo anche ad Atene, quindi per gli inglesi riuscire ad avere un numero di visitatori durante il periodo olimpico che è uguale a quello che normalmente avrebbero se anche non ci fossero Olimpiadi, fa capire che poi fondamentalmente questo sta diventando un evento molto autoreferenziale, cioè che parla a se stesso e parla a una famiglia olimpica che è composta più o meno sempre da quello stesso numero di persone che vengono seguiti dalle loro famiglie oltretutto. Quindi questo è un dato interessante, perché il primo fenomeno da evitare per chi lo organizza è la fuga dalle Olimpiadi di chi la fuga dalla città che ospita, e questo detto dagli inglesi credo che sia inconfutabile, e mi meraviglio che questo dato non fosse emerso nel report che era stato presentato poi all'epoca al nostro premier Mario Monti. Oltretutto l'altra eredità difficile da gestire è quella dell'impiantistica. Da questo punto di vista credo che il governo britannico e la municipalità di Londra sia nettamente più pronta rispetto a quella ad esempio di Roma o comunque al mercato italiano, se per gestire e sfruttare al massimo le potenzialità post-olimpiadi di questi impianti sotto il profilo della capacità ricettiva e di gestione di nuovi altri eventi sportivi o di nuovi altri eventi di quelli che si chiamano tecnicamente leisure e entertainment. E quindi loro da questo punto di vista sono sicuramente più organizzati e hanno manager in grado di saper gestire al massimo questi impianti nel momento in cui si spegneranno i riflettori e le luci di Londra 2012. Poi concedimi una battuta, Marcel, in qualsiasi di questi report ormai c'è sempre un milione di cinesi che viene messo dentro che fa tornare i conti, no? Arriva sempre questa spolveratina di turismo cinese che poi è inquantificabile, immisurabile e in realtà non intercettabile, che ripiana tutti i bilanci e le previsioni. Il problema è anche un altro, cioè che questi eventi vengono assegnati con 7 anni di anticipo e ormai la situazione economica è talmente rapida in evoluzione di mese in mese che un orizzonte temporale di 7 anni è praticamente pari a un secolo. Quindi magari nel momento in cui la città o il paese cui viene assegnato questo evento riescono ad ottenere questo importante titolo di host city o di host country, magari in quel momento l'economia è sana, poi passano gli anni e spesso e volentieri succede che queste stesse economie che all'inizio dell'assegnazione erano sane poi si modificano, perché questo arco temporale è molto lungo. Probabilmente ci vuole un monitoraggio del CIO in corso d'opera. Questo è successo ad esempio nel 1998, lì parliamo di Olimpiadi invernali, sette anni prima nel 91 Nagano riesce a conquistare l'assegnazione dei giochi olimpici invernali, è un'economia giapponese sana, si arriva nel 1998 nel buio più profondo dell'economia nipponica, del sollevante, quindi non hanno poi saputo sfruttare quell'opportunità, perché in quell'anno è successo di tutto sulle borse internazionali e soprattutto su quella giapponese. Allora, in merito a Londra 2012 abbiamo 1,6 miliardi di euro di diritti TV e 2,7 miliardi di euro legati al business degli sponsor e quant'altro. Ma effettivamente il gioco vale ancora la candela? Cioè, c'è un ritorno di prestigio e d'immagine a legarsi alle Olimpiadi tale da giustificare questi investimenti? Se l'Olimpiade viene utilizzata per cambiare radicalmente l'immagine di una città, ricordiamo Barcellona 92, post evento era una città completamente differente rispetto al periodo in cui ottenne l'assegnazione, allora la risposta è sì. Nel caso di Londra non è un sì completo, perché non ha cambiato radicalmente l'immagine e il volto della città, però ha cambiato radicalmente un grande quadrante, cioè Londra Est, che era una zona fortemente periferica dove c'era anche un forte degrado e delinquenza, quindi ha riportato alla luce in modo sano un grandissimo quadrante di quest'area urbana e metropolitana, però non ha cambiato radicalmente l'intera città di Londra. Quindi se questo evento viene utilizzato dal governo che ottiene insieme col comitato organizzatore l'assegnazione dell'Olimpiade, la risposta è sicuramente affermativa, però in questo momento di difficoltà economica io non credo che esista in Europa un paese che si possa permettere di ospitare un evento come l'Olimpiade, perché gli investimenti infrastrutturali e strutturali sono enormi e il ritorno probabilmente è nel medio-lungo periodo, quindi nel breve. Quindi vuol dire che è un investimento in linea di principio a fondo perduto. Non credo che in questo momento ci siano delle economie europee così sane da potersi permettere una spesa di questo tipo. Non è un caso che se passiamo dall'Olimpiade al calcio e parliamo di Qatar 2022, parliamo di un evento dove il governo qatariota ha previsto a fondo perduto 80 miliardi di dollari, quindi stiamo parlando di numeri che oggi in Europa non ci sono, cioè la coperta è talmente corta che per poter ospitare e gestire eventi di questo tipo forse il CIO dovrebbe almeno per due o tre edizioni, sia invernali che estive, andare verso nuove economie, economie più sane che in questo momento non sono presenti nell'Unione Europea. E allora staremo a vedere quale sarà l'eredità di Londra 2012, anche e soprattutto sotto questo profilo. Intanto grazie al direttore di Sport Economy, Marcel Vulpis, per essere stato il nostro ospite qui a Radio 24 e a Bordo Campo. Un saluto a voi, grazie. E allora, stiamo provando a fare un po' di conti in tasca all'Olimpiadi di Londra 2012, perché il medagliere definitivo lo conosceremo solamente la sera del 12 agosto. Ma c'è già chi, anche tra gli italiani, la sua medaglia l'ha vinta, e non faccio riferimento a quello che sta accadendo sulle piste e sui campi di gara, ma piuttosto a quelle aziende, a quelle 13 aziende italiane che sono riuscite a farsi valere nel campo del business olimpico e a portare a casa delle commesse per un valore stimato in totale di circa 120 milioni di euro. Un buon risultato considerando che il 90-95% degli appalti a disposizione sono stati vinti da imprese britanniche, che poi però in molti casi hanno scelto partner stranieri per sviluppare i loro progetti. Allora, le piste d'atletica, gli adesivi e i prodotti green per l'edilizia, ben 7 piscine temporanee, alcune tribune anch'esse mobili, e poi attrezzature di vario tipo, software gestionali, attrezzature per le palestre, essere chi più ne ha più ne metta, questi i campi in cui le aziende italiane sono riuscite a farsi valere, come ci ha spiegato e ci spiega Fortunato Celi Zullo, il direttore dell'ufficio dell'Istituto del Commercio Estero di Londra, che traccia così un bilancio delle Olimpiadi del business delle aziende italiane. Ma è stata un'Olimpiade abbastanza interessante. Chiaramente il paese che organizza le Olimpiadi è un paese come la Gran Bretagna, con un buon tessuto anche produttivo, quindi ha cercato di giocare un ruolo da predominante nell'organizzazione, ma nonostante questo le nostre aziende si sono fatte valere. Diciamo che ormai in questi grandi avvenimenti sportivi ci sono un gruppo di aziende italiane che ha acquisito una buona, diciamo forse pure una forma di leadership. E allora, esiste quindi un gruppo consolidato di nostre aziende che riesce a farsi valere nella corsa al business a cinque cerchi? E allora sentiamo qualche esempio, perché molto curioso ad esempio il lavoro messo in campo dalla Aquatech Engineering in collaborazione con le piscine Castiglione per illuminare letteralmente le vasche della pallanuoto. Sapete, nella pallanuoto ci sono alcune linee di riferimento del gioco che vengono abitualmente indicate a bordo vasca con dei birilli, spesso non inquadrati dalla televisione e quindi difficilmente visibili o percepibili. Ebbene, Aquatech Engineering ha messo a punto un sistema per colorare di rosso e di verde queste linee, potendo così evidenziarle soprattutto a beneficio anche dei giocatori, anche degli spettatori in vasca, ma soprattutto del pubblico televisivo, come ci spiega Vittorio Tallia, l'amministratore delegato di Aquatech Engineering. Alle Olimpiadi, nello stesso campo bisogna montare un sistema adatto agli incontri maschili e femminili, quindi il fatto di dover spostare ogni giorno le porte e conseguentemente i pozzetti e ha creato delle complicazioni tecniche eccessive, per cui si è rinunciato in questa prima utilizzazione ufficiale all'illuminazione dietro le porte e i pozzetti, quindi saranno illuminate le aree dei 2-5 metri con l'illuminazione subacquea e sono stati sostituiti i birilli o comunque i segnalatori attuali con dei paletti luminosi a bordo vasca. L'azienda che distribuirà a livello commerciale il sistema è Piscina Castiglione, che lo proporrà negli impianti che saranno in costruzione in futuro come impianto fisso. Per quanto riguarda invece la nostra attività, un'attività che sarà concentrata su un discorso prevalentemente di noleggio, quindi questo impianto, essendo un sistema che viene utilizzato esclusivamente durante le competizioni agonistiche, si adatta bene a essere noleggiato in funzione degli eventi, e in autunno stiamo già elaborando una proposta per la federazione perché questo sistema venga utilizzato durante le dirette televisive dell'accordo fra RAI e Federazione Italiana. Italia protagonista anche per quanto riguarda la realizzazione della torcia olimpica, quella torcia olimpica che è arrivata a Londra il 27 luglio dopo essere partita il 10 maggio da Olimpia attraverso una staffetta con 8.000 tedofori. Ebbene, proprio le macchine che hanno contribuito a disegnare questa torcia olimpica, a realizzarla e anche a disegnare quegli 8.000 fori che la caratterizzano, ognuno dei quali sta a indicare proprio uno dei tedofori, è stata realizzata grazie al contributo della Prima Industrie di Torino, che ha messo a disposizione i propri macchinari. Sentiamo l'ingegner Flavio Gregori, direttore marketing di Prima Industrie. Abbiamo fornito due macchine, una che taglia questi 8.000 fori al laser, chiaramente in piano, poi la lamiera di alluminio viene piegata a forma di torcia e viene saldata con un altro nostro macchinario, si chiama Optimo, viene saldata per chiudere sostanzialmente la torcia, e vengono sempre saldati con la stessa macchina due cappelli, uno sotto e uno sopra, e poi sempre la macchina, diciamo, ottimo, completa la foratura lungo la giuntura che è stata creata per saldando i due lati. Quindi con due nostre macchine, a parte la funzione di piega, quindi di formatura della torcia, si crea tutta la torcia. Questa torcia è ricca di simbolismi. Quelli dichiarati, di cui sono a conoscenza, sono gli 8.000 fori, rappresentano gli 8.000 tedofori che sostanzialmente portano la torcia in tutto il mondo in modo simbolico verso l'inizio delle Olimpiadi e poi accendono la fiamma olimpica prima dell'inizio delle Olimpiadi. Questa torcia ha un'altra peculiarità rispetto alle torce delle edizioni passate delle Olimpiadi: è una torcia di forma triangolare, se la guarda, diciamo, in pianta, quindi dall'alto. Ha una forma triangolare perché, secondo i designer della torcia, questo, diciamo, rappresenta intanto il fatto che a Londra questa è la terza edizione delle Olimpiadi, e poi il fatto che il motto olimpico è un motto di tre parole, quindi anche se i cerchi olimpici sono cinque, però il motto è un motto di tre parole. E allora, questa è la simbologia dietro la fiaccola di Londra 2012, Italia competitiva anche sui campi, non solo attraverso i propri atleti, ma attraverso la propria tecnologia, come ad esempio dimostra la sfida di due aziende italiane impegnate nel nuoto con i propri costumi, la Jaked, che è lo sponsor tecnico della Nazionale Azzurra, e la Arena, che è ormai azienda tradizionalmente sempre presente nei grandi appuntamenti natatori mondiali e che ha messo a punto un particolare costume. Ricorderete tutta la polemica che c'era stata nel 2008 prima di Pechino con i super costumi in poliuretano, cancellati dai nuovi regolamenti, ma la tecnologia, quella davvero, non si ferma, come ci ha spiegato Giuseppe Musciacchio, general manager di Arena Group. Proseguiamo in qualche maniera nel solco della continuità della famiglia dei Power Skin, i nostri costumi da gara che, appunto, sin dalle Olimpiadi di Sydney nel 2000 abbiamo cominciato a, diciamo, lentamente a far diventare un punto di riferimento nel mondo del nuoto. Gli ultimi 4 anni ci hanno insegnato anche molto in termini di tecnologia, in termini diciamo, dell'importanza sia idrodinamica che fisiologica di alcune delle componenti essenziali del costume, e in particolare della capacità del costume di dare il giusto livello di compressione. Sulla base di questi elementi è nato quello che, diciamo, abbiamo ribattezzato il Power Skin Carbon Pro, cioè il primo costume da gara che integra all'interno della propria struttura di base una gabbia elastica di fibre di carbonio. Il ruolo del carbonio è proprio quello, in qualche maniera, di influire sul comportamento elastico del costume, rendendolo meno lineare, quindi anziché comportarsi come una normale fibra a base di lycra o di fibre elastiche, che è possibile, diciamo, estenderla, strecciarla fino a un certo punto, poi si blocca. Il carbonio ha un comportamento diverso, diciamo, che è lineare fino a un certo punto, dopodiché prima che si blocchi la lycra, interviene rallentando il processo di espansione. Questo vuol dire che quanto più il muscolo lavora, quanto più il muscolo si gonfia, tanto più la fibra di carbonio influisce sulla specifica massa muscolare. E noi abbiamo chiamato questo principio il principio della compressione intelligente. E allora, in attesa dei trionfi dei nostri azzurri, questa è l'Italia che ha già vinto le sue Olimpiadi di Londra 2012. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, grazie a Matteo Comes in regia. Potete scriverci alla mail a bordocampo@radio24.it e riascoltarci sempre dal nostro sito web e sempre sulla nostra pagina web, dialogare con noi attraverso il nostro blog. L'appuntamento, come d'abitudine, per domenica prossima alle 14.30 e in replica il sabato mattina alle 6.30. Un saluto e buona giornata da Dario Ricci.